24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bilancio europeo, manca l'accordo tra stati, si tratta sull'approvazione. Non c'è ancora intesa tra Consiglio e Parlamento europeo sui quasi 9 miliardi di euro aggiuntivi per il budget 2012. Summit Monti Cameron, il premier inglese contrario all'aumento del budget. Terremoto in Emilia, sbloccati i fondi, via libera dell'Ecofin ai 670 milioni di aiuti. Rinviato invece l'ok sui nuovi aiuti alla Grecia per contrasti tra Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. E il ministro delle Finanze ellenico avverte, c'è il rischio elevato di bancarotta. Benvenuti da Paolo Pancieri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Proseguono le trattative tra Consiglio e Parlamento europeo sul bilancio 2013, nonostante la mancanza di accordo tra gli stati componenti sui fondi aggiuntivi per il budget 2012 di quasi 9 miliardi. Il blocco della trattativa metterebbe a rischio il funzionamento dell'intera Unione europea. E del bilancio europeo hanno parlato anche il premier Mario Monti e il primo ministro inglese David Cameron a Roma. Per Monti, tra Roma e Londra ci sono punti non perfettamente coincidenti, ma anche punti in comune. Primo fra tutti, il bilancio dell'Unione orientato alla crescita e allo sviluppo della competitività. Cameron invece si è detto contrario all'aumento del budget, ma sentiamo Monti. Abbiamo lavorato insieme per portare al Consiglio europeo posizioni comuni con altri stati membri sui temi del mercato unico, dello sviluppo economico e del ruolo che il mercato unico ha per la promozione dello sviluppo economico in Europa. Proprio perché abbiamo ottenuto e ne siamo soddisfatti l'adozione di un patto per la crescita nel Consiglio europeo di giugno, teniamo molto a che vengano adesso attuate tempestivamente le decisioni concrete per dare vita e slancio a quel patto e abbiamo l'intenzione, il primo ministro e io, di chiedere al presidente del Consiglio europeo Van Rompuy e al presidente della Commissione europea Barroso di rendere più chiaro e rapidamente funzionante il canale attraverso il quale tutte le decisioni relative al mercato unico possano arrivare tempestivamente al tavolo del Consiglio europeo. Sono salvi invece i fondi europei per il sisma in Emilia, stralciati dai negoziati sul bilancio 2012-13. Soddisfazione del premier Monti. Via libera europeo al termine di 4 giorni di dure polemiche e 670 milioni per i terremotati dell'Emilia. L'ok è arrivato tecnicamente grazie a uno stralcio del dossier d'arresto della complicata trattativa sulla chiusura dei buchi di bilancio comunitario 2012 e sull'approvazione di quello 2013. Una sorta di corsia preferenziale che ha separato i fondi di solidarietà dal resto del pacchetto, su cui ancora si combatte. 3 paesi hanno votato contro la luce verde agli aiuti per i terremotati, si tratta di Gran Bretagna, Svezia e Finlandia, un'opposizione che non ha impedito però lo sblocco del dossier. A questo punto resta solo la formalità di un'approvazione ufficiale anche da parte di Commissione ed Europarlamento, che consentirà l'erogazione effettiva dei fondi entro metà della prossima settimana. Determinanti per il risultato sono state le pressioni diplomatiche, prima del governo italiano che nel weekend ha definito inaccettabile il blocco degli stanziamenti, poi del presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, che lunedì si è scagliato con toni molto duri contro i paesi che si erano messi di traverso. Soddisfatto il premier Mario Monti, positivo anche il primo commento del presidente dell'Emilia Romagna Errani, questa è l'Europa che rappresenta tutti. Intanto il resto dei negoziati sul bilancio europeo 2013 sprofonda nel caos, con il Parlamento europeo che minaccia di non partecipare ai negoziati col Consiglio perché non c'è accordo tra gli Stati membri sui fondi aggiuntivi necessari per il budget 2012, quasi 9 miliardi tra cui fondi strutturali e fondi Erasmus. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Soddisfatta anche l'eurodeputata Francesca Balzani della Commissione Bilancio dell'Europarlamento, che in questi giorni ha lavorato allo sblocco dei fondi per l'Emilia. L'ha intervistata Sergio Nava. Credo che sia stato determinante il ruolo che ha svolto il Parlamento. Abbiamo avuto il coraggio di mettere sul tavolo la minaccia del blocco di tutti i negoziati sui pagamenti e sul budget per il 2013. E questa è stata un'arma di pressione molto forte. Questi fondi a questo punto saranno sbloccati presumibilmente entro fine settimana, è corretto? Esatto, abbiamo intenzione di metterli immediatamente al voto già nella prossima plenaria di Strasburgo, quindi indicativamente intorno al 20-22 novembre ci sarà il voto finale della plenaria e quindi lo sblocco. Vi ha stupito l'opposizione di ancora 3 paesi? Devo dire la verità, mi ha stupito che ci fosse una messa in discussione del Fondo di Solidarietà, perché è un fondo che segue sempre un canale privilegiato, un fondo d'emergenza, un fondo per uno Stato che ha subito una catastrofe e quindi solitamente non è oggetto di negoziati. Ma dopo quello che era successo venerdì, fino all'ultimo ho avuto il timore che ci fossero nuove pressioni in senso contrario. Resta invece bloccata la tranche di aiuti da 30 miliardi di euro ottenuta da Atene con l'approvazione del nuovo piano di austerità da 13 miliardi, anche a causa delle differenze di vedute tra Fondo Monetario Internazionale e Unione sulle modalità di gestione della crisi. Se ne riparla martedì. Atene ha però ottenuto la proroga di 2 anni, dal 2014 al 2016, per il raggiungimento degli obiettivi di deficit, ma lo slittamento potrebbe costare fra i 30 e i 40 miliardi di euro. Il rischio che si produca un incidente che finisca per portare il paese alla bancarotta è molto elevato, ha avvertito il ministro delle Finanze Sturnaras. Sentiamo Vittorio Darold in Focus Economia. La Unione Europea informalmente hanno detto che loro darebbero il via libera a far salire il cosiddetto tetto per emettere i treasury bill da 12 appunto a 17 miliardi, quindi quei 5 miliardi che servivano per pagare la scadenza di titoli di Stato appunto a cui la Grecia non ha soldi per appunto pagare, e questo dovrebbe quindi salvare per il momento la situazione che, come tu sai, è un via libera, una proroga di 2 anni, ma ahimè ci sono 32 miliardi sul piatto da trovare e qui tutti i paesi europei, nessuno concorda, addirittura litigano con il Fondo Monetario perché nessuno trova la soluzione. Il Fondo Monetario vuole ridurre il debito, cioè vuole risolvere una volta per tutte, ristrutturare, che vuol dire pagare di nuovo. I paesi del nord Europa invece non ne vogliono sentir parlare e quelli del sud dicono almeno allora troviamo una formula che sia la meno dolorosa possibile, cioè aumentiamo, diminuiamo i tassi di interesse oppure diamogli più tempo per pagare il debito. Chiusura positiva ieri per le borse europee, Milano e Madrid le piazze migliori, il FTSE MIB ha chiuso in progresso dell'1,4%, Madrid ha guadagnato l'1,66%, Parigi più 0,56%, Atene più 0,37%, Londra più 0,33%, Francoforte invariata. Finale positivo per le borse europee che proprio nell'ultima ora di contrattazione a sorpresa hanno virato al rialzo, incoraggiate dal miglioramento di Wall Street. Milano e Madrid hanno vantato le performance migliori, con Piazza Affari spinta in alto soprattutto dalle azioni delle banche, che hanno festeggiato sia alcune trimestrali superiori alle attese sia il calo dello spread. Il FTSE MIB ha chiuso in progresso dell'1,4%. I conti del terzo trimestre hanno incoraggiato gli ordini in acquisto su Unicredit più 4,3%, Intesa San Paolo più 5,19% e BPM più 4,57%. Per contro, l'effetto trimestrale ha fatto arretrare di oltre il 6% le azioni di Tod's, che tuttavia da inizio anno vantano un progresso attorno al 40%. L'attenzione inoltre è rimasta alta su Telecom Italia più 0,28%, in attesa di novità sull'interesse manifestato dal finanziere egiziano Naguib Sawiris per entrare nel capitale. Da Radio Core, Leonora Micheli per Radio 24. L'Unione Europea scrive all'Italia sulle frequenze TV e lamenta la poca concorrenza. Sono ben 9 le criticità del regolamento sull'asta per l'assegnazione delle frequenze televisive. È scritto nella lettera dei commissari UE alla concorrenza Almunia e alle comunicazioni Kroes e inviata al nostro presidente dell'autorità per le comunicazioni Angelo Cardani. La prima stoccata è al governo Monti, la seconda a quello Berlusconi. Le rispettive leggi per l'assegnazione delle frequenze avrebbero dimenticato 2 dettagli chiave per l'operazione: il rispetto delle norme europee e l'impegno per ottenere maggiore concorrenza nel settore. La lettera ricorda che la GCOM può disapplicare le norme nazionali in quanto contrarie a quelle europee e può dunque riscrivere i criteri già approvati. Per l'Unione Europea, in un paese chiave come l'Italia, c'è in ballo il pluralismo. In sintesi, sia Rai che Mediaset non potranno superare il tetto dei 5 multiplex e i nuovi entranti dovranno essere privilegiati nelle scelte. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora lo sport. Un'alleanza tra industria farmaceutica e le agenzie nazionali antidoping, oltre alla piena applicazione della Convenzione europea contro le sostanze illecite nello sport. È la strategia definita dal Simposio internazionale sul doping, promosso dal Consiglio d'Europa e dal Ministero per lo Sport francese a Parigi. Il vice segretario generale del Consiglio d'Europa, Gabriella Battaini Dragoni, intervistata da Dario Ricci.